luci non ore, ci sono carenze, le pomane anche ne. Fremono magari, ci sono pecche in c'è, che te lo voglio c'è me. Oh God, back in check, 그대로 빨려 전해.